I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. In gergo calcistico, quello che sta accadendo all'Italia in Europa potrebbe anche chiamarsi biscotto. E per l'appunto, mentre l'Europa è calda a parole ma fredda a portafogli e azioni concrete, nel frattempo è molto più dinamica e coesa l'Europa del centro nel cercare di fare il biscotto su chi si aggiudicherà le agenzie europee che andranno via da Londra dopo la Brexit. Se ormai si dà infatti quasi per scontato che l'EBA, l'autorità bancaria europea, vada a Francoforte, meno scontato invece quello che ha denunciato il Sole 24 Ore, ossia un accordo tra Germania, Austria e Repubblica Slovacca per avanzare e rafforzare la candidatura di Bratislava per l'Agenzia Europea del Farmaco, su cui Milano punta moltissimo. Si scrive infatti Bratislava, ma si legge blocco tedesco, Berlino, Vienna e appunto la capitale della Slovacchia. Un blocco che sta facendo scendere e di molto le chance di Milano. A questo punto è necessario che il governo italiano faccia un intervento forte e deciso su tutti i fronti e non abbia sempre una priorità a distrarlo da un'operazione più complessiva. Se infatti si continua ad andare in Europa, una volta per chiedere un allentamento del deficit, un'altra per il salvataggio delle banche, un'altra ancora per i migranti, non si riuscirà mai a avere un'operazione coordinata e congiunta, con il rischio che nel frattempo gli altri il biscotto ce lo facciano veramente. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Aumenta il potere d'acquisto delle famiglie che tornano a risparmiare di più senza peraltro penalizzare troppo i consumi, ma gli investimenti restano bassi e la pressione fiscale aumenta. È la solita Italia stop and go, quella che fotografa oggi l'Istat nel cosiddetto conto trimestrale delle amministrazioni pubbliche. Il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dell'1,5% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,3%. Di conseguenza, la propensione al risparmio delle famiglie consumatrici è stata pari all'8,5%, in aumento dello 0,3% rispetto al trimestre precedente. Il potere d'acquisto delle famiglie è cresciuto dello 0,8%, ma il loro tasso di investimento, ad esempio per le abitazioni e la loro manutenzione, che è l'indicatore utilizzato dall'Istat, sempre nel primo trimestre di quest'anno, è stato pari al 6,1%, sostanzialmente invariato rispetto ai tre mesi precedenti, e di un aumento di un solo 0,1% rispetto al trimestre corrispondente del 2016. Un segnale che, nonostante le cose migliorino, resta ancora poca fiducia nel futuro. Situazione analoga per le società non finanziarie, la cui quota di profitti è rimasta invariata, ma è scesa la loro propensione a investire. Ancora peggio per gli investimenti della pubblica amministrazione. Le uscite in conto capitale sono diminuite dell'1,6% in un anno, in particolare gli investimenti fissi lordi sono calati del 3,8%. Infine, la pressione fiscale è stata pari al 38,9%, segnando un aumento di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Più tasse, meno investimenti, ancora timori per il futuro. È anche per questo, anche se non solo per questo, che la ripresa non dispiega ancora tutto il suo potenziale, che comunque sarebbe notevole. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.